Va ora in onda Note, a cura di Giacomo Sapienza. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Calo di voce dovuto al gran tifo in Piazza Duomo per la squadra cefaludese di Mezzogiorno in Famiglia. Squadra cefaludese che, come vedete sui nostri monitor in streaming, è ospite nuovamente in studio qui a CRM e per radio. Ma iniziamo però con il direttore del Centro Ecumenico La Palma, Don Liborio Asciutto, perché ci presenterà un'iniziativa davvero importante ed interessante che si svolgerà nel Teatro Comunale mercoledì 17 aprile alle ore 18. Di cosa si tratta? Iniziamo subito con la descrizione dell'evento. Grazie, buongiorno a tutti. Il Centro Ecumenico a Confessionale La Palma ogni anno cerca di organizzare delle iniziative sul dialogo interreligioso, sull'ecumenismo, cioè l'incontro fra le confessioni cristiane. Per quest'anno abbiamo pensato a una riflessione sulla sofferenza dalla prospettiva delle tre religioni monoteiste. Sappiamo che il tema della sofferenza, il tema del dolore sono argomenti che hanno sempre attirato l'attenzione dei pensatori, dei teologi, proprio per la rilevanza del problema. E noi ci siamo chiesti quali risposte sono state date al problema della sofferenza, al problema del dolore da parte delle tre grandi religioni monoteiste. Allora abbiamo invitato una scrittrice e traduttrice dell'ambito ebraico, Elena Löwenthal, una scrittrice molto importante che viene da Torino e che ci parlerà proprio di questo tema dalla prospettiva ebraica. Poi, per quanto riguarda il cristianesimo, avremo la presenza di uno dei più validi teologi moralisti italiani, Giannino Piana. Ha pubblicato varie opere di morale e scrive su Gesù, su Famiglia Cristiana, su tante riviste, quindi un nome abbastanza noto. Per quanto riguarda l'Islam, abbiamo invitato l'architetto Asfa Mahmoud, che fa parte del direttivo della Casa Culturale Islamica di Milano, un organismo che cerca di integrare la popolazione di religione musulmana nell'ambito del territorio della città di Milano. Quindi faremo questi interventi e l'iniziativa si svolgerà presso il Teatro Comunale mercoledì 17 aprile alle ore 18. Sì, sto leggendo nell'avviso, annuncio dell'evento, che il Centro Ecumenico La Palma festeggia, si appresta a festeggiare il 18° compleanno, diventa maggiorenne della settimana cefaludese per l'ecumenismo. Ecco, una manifestazione che cresce di anno in anno e che ha visto a Cefalù ospiti davvero illustri. Vogliamo ripercorrere, per chi non conosce le iniziative, la storia del Centro Ecumenico? Sì, il Centro Ecumenico La Palma è stato inaugurato ufficialmente nel 1995 con una conferenza di Hans Küng, il grande teologo di Tubinga, esperto di ecumenismo e di dialogo interreligioso. Poi negli anni abbiamo cercato di fare varie iniziative, per esempio sul protestantesimo, sull'ebraismo, sull'islam, sull'ortodossia e anche aspetti particolari, per esempio un confronto interreligioso sull'arte, un confronto interreligioso sulla donna, sulla situazione della donna. In modo particolare abbiamo affrontato il problema della donna nell'ambito dell'Islam e quindi cerchiamo ogni anno di trovare degli argomenti e soprattutto invitare delle personalità appartenenti alle varie religioni. Cioè, noi come criterio cerchiamo di seguire proprio questo, di non filtrare noi la voce dei musulmani o degli ebrei o degli ortodossi o dei protestanti, ma far parlare loro del loro punto di vista. E sono iniziative chiaramente di un certo rilievo, ma cerchiamo anche di mantenerci a un livello abbastanza semplice in modo che tutti possano seguire e partecipare. in ambito internazionale quali sono le prospettive per l'ecumenismo anche alla luce delle direttive del nuovo pontefice Papa Francesco? Sì, dobbiamo dire che a parte la grande figura di Giovanni Paolo II che fece delle iniziative straordinarie in questo campo, il Papa Benedetto XVI, ora in questi pochi giorni il Papa Francesco, hanno detto che il dialogo interreligioso deve essere una componente fondamentale. Ricordiamo che questo ultimo Papa, Papa Francesco, in appena meno di un mese di pontificato ha avuto già 3 incontri con il rappresentante dell'ebraismo di Roma. E quindi sottolinea proprio questa esigenza di un dialogo con le altre religioni, che sia un dialogo di rispetto ma anche di conoscenza, perché noi tante volte parliamo dell'Islam ma non conosciamo questa religione, per l'ebraismo o per altre confessioni cristiane. Le cronache di questi giorni però ci parlano della necessità di un dialogo anche con le nazioni dei, tra virgolette, non credenti. Sì, sì. Purtroppo gli eventi della Corea, ad esempio, dove la religione è sicuramente messa al bando, quindi l'ecumenismo si deve espandere anche al dialogo con l'ateismo. Sì, sì, senz'altro. Noi qui chiaramente ci interessiamo anzitutto delle religioni, in particolare delle religioni monoteiste, ma chiaramente il dialogo deve essere aperto a tutti, anche a chi non ha nessuna fede, nessuna religione, e quindi in questo senso il nostro centro è aperto a ogni dimensione, a ogni forma di dialogo. Ci sono tanti giovani oggi che ci ascoltano, che messaggio dare loro? Anche ridiamo eventualmente anche l'invito alla conferenza incontro. Sì, diciamo è un'esortazione a conoscere e a rispettare. Tante volte noi ci facciamo prendere dai pregiudizi, in base a questi pregiudizi diamo dei giudizi scontati, negativi, mentre le realtà sono sempre molto complesse, dobbiamo cercare di capirle, di comprenderle e soprattutto di rispettarle. Usciamo un attimo dall'ambito dell'ecumenismo, perché abbiamo citato Papa Francesco e ha parlato del rispetto del creato. Lei è anche il responsabile per la giornata del creato che si celebra anche nella nostra comunità. Sì, questa è un'iniziativa che ancora stenta ad essere, a diffondersi nel mondo cattolico. Dobbiamo dire che è un'iniziativa che è partita dal patriarca ortodosso di Costantinopoli, Istanbul, la giornata per la salvaguardia del creato, cioè anche qui il rispetto per il creato che, se viene sfruttato al massimo, poi distrugge la stessa realtà della vita umana. Questa iniziativa, partita dalla Chiesa ortodossa, poi è stata recepita da altre chiese, compresa la Chiesa cattolica, e ogni anno, in genere si preferisce i primi giorni di settembre o anche tutto il mese di settembre, però è chiaro che l'iniziativa si può svolgere in qualsiasi momento dell'anno, una particolare giornata dedicata alla salvaguardia del creato. E a proposito, dobbiamo ricordare che Papa Francesco varie volte in questi pochi giorni di pontificato ha fatto proprio riferimento alla salvaguardia del creato, quindi è una buona speranza anche questa. Vogliamo ricordare nuovamente l'appuntamento? Allora, mercoledì 17 aprile alle ore 18 presso il Teatro Comunale. Come sappiamo, il Teatro Comunale ha una limitata disponibilità di posti, quindi c'è ingresso libero fino ad esaurimento di posti. Invitiamo tutti a partecipare, penso che sarà un momento abbastanza importante e interessante. Mi permetto di invitare in maniera particolare Serena, che è studentessa di scienza naturale. Invitiamo tutti. Invitiamo tutti i giovani. Bene, grazie e buongiorno a tutti. Grazie a lei. Allora ricordiamo mercoledì 17 alle ore 18 al Teatro Comunale la conferenza sulle religioni monoteiste dinanzi alla sofferenza. A questo punto la linea deve tornare alla regia curata da Patrizia Currere. Ogni giorno la vita è una grande corrida, alla notte no, ogni giorno una lotta, chi sta sopra, chi sotto. Alla notte no, al mattino è un po' grigio se non c'è il dentifrigio. Alla notte no, tu ti guardi allo specchio e ti sputi in un occhio. Ma la notte no, perché non è più un minuto per fare l'amore. Ma la notte no, questa è finita, e viva la vita. E sempre di feste, comincio a monta, un mondo diverso, ma quanto di senso e di vita verrà. Ma la notte no, questa è finita. E siamo di nuovo in studio, abbiamo ascoltato e visto in streaming la sigla di Mezzogiorno in Famiglia. Patrizia Curella alla regia, però questa volta interviene come co-conduttrice. Sì, tutto, faccio un po' tutto. Ciao Giacomo, ciao a tutti i nostri radioascoltatori, siamo di nuovo qui, non tanto delusi ma ancora grintosi, perché poi vi diremo appunto sì, abbiamo perso, però abbiamo fatto una bellissima gara, ancora c'è possibilità di ritornare lì in quei bellissimi studi, un po' faticati, però forse ci ritorneremo, speriamo, però lo diremo in seguito, ecco. Presentiamo allora appunto i nostri ospiti. Sì, abbiamo in studio, intanto ve li presento, Maria Rosaria Barranco, Serena Cesare, Ketty Lamartina e Maria Halamainen, che ci racconteranno ancora una volta dell'esperienza romana, un'esperienza fantastica conclusa al photo finish con quando la manona del nostro avversario ha toccato la casella giusta e noi di sopra buttate, ma non ci siamo riusciti, peccato. Rosa Maria, com'è andata? Maria Rosaria. Praticamente è andata alla stessa maniera di come è andata nella prima puntata, dove noi, diciamo, anche con un pizzico di fortuna abbiamo vinto il fine settimana contro De Senzano. Diciamo che noi ci siamo comportati brillantemente in questa seconda fase, dove abbiamo fatto numerosi record, il record della puntata, mai nessuno aveva fatto 8-0 e quindi mai nessuno aveva fatto 8 punti a canestro all'indietro. Diciamo nei 5 anni di trasmissione, che infatti Michele Guardini si è complimentato, mai nessuno aveva portato cannoli giganti e cassate che giganti come quelle streaming. E mai nessuno aveva fatto 12 mele in una gara. Quindi, parlando poi con l'autore Michele Guardini, che si è complimentato con tutta la squadra e ci hanno dato anche una targa onorifica per i nostri risultati, però alla fine l'ultimo gioco è quello, diciamo, che capovolge la situazione in un certo senso, e quindi che conta di più è... Siamo stati sfortunati, come dice il consigliere Garbo, mancò la fortuna e non il valore della squadra. Sicuramente, è un'esperienza in ogni caso bellissima, anche per chi è rimasto a Cefalù a giocare nella splendida cornice di Piazza Duomo. Stiamo vedendo, o anzi rivedendo in streaming per l'ennesima volta, le immagini registrate nella piazza di Cefalù. Intanto un saluto alla squadra che è rimasta in città per gareggiare, e ci sono stati dei risultati davvero eccezionali. Ecco, voi come sedivate in studio? Che è il microfono? Come sedivate dallo studio romano quando succedeva? Noi seguivamo tutto con grande fermento. Poi quello che è successo, appunto, è successo. Però noi abbiamo fatto veramente di tutto per uscire con dignità. Penso che siamo usciti proprio a testa alta. Certo, c'è il dispiacere, perché comunque ci speravamo, ormai eravamo arrivati lì, erano 13 punti, pensavamo proprio di avere la vittoria in tasca. Niente, un po' di scorrettezza secondo me dall'altra parte della squadra c'è stata, in quanto si sono appunto spalmati sul tappetino, non è stato proprio un lancio sul segno, ma si è proprio spalmato. Quindi però cosa dobbiamo fare? Dobbiamo incassare purtroppo questa sconfitta e accettare quello che è successo. sperando di ritornare. Che bilancio puoi fare di questa esperienza doppia romana? Noi ci siamo divertiti tantissimo, ripeto, ci siamo trovati tutti molto bene, anche perché penso che ognuno di noi abbia delle qualità, che comunque particolari, che compensano quelli che praticamente gli altri non hanno. Abbiamo fatto una squadra affiatatissima, spero in futuro comunque di rimanere con loro sempre amici e di rincontrarli magari per un'altra avventura come quella che abbiamo appunto vissuto. Qual è il gioco che ti è piaciuto di più? Quello che non mi è piaciuto di più è quello delle mani, perché lo ricorderò in eterno. In eterno. Lo stiamo rivedendo in streaming, sì, perché in è collegato eterno. Su crmpradio.it. Quello delle mani proprio è quello che voglio dimenticare in assoluto. Il gioco che più mi è piaciuto è quello musicale, per quanto mi riguarda, perché collego tutto con la musica, amo la musica. Poi per il resto il programma è molto carino, cioè io non lo seguivo tanto con tanta ammirazione, adesso lo guardo con occhi diversi, forse perché comunque ci ho partecipato, perché è stata comunque una vetrina per noi e quindi è eccezionale, tutto eccezionale, veramente un grande rammarico. Serena, le stesse domande, un bilancio sulla tua esperienza romana, il gioco che ti è piaciuto di più? Allora, innanzitutto quello che non mi è piaciuto è stata la mia doccia, l'ultima puntata, però a parte questo è sicuramente un'esperienza positiva, noi abbiamo dato il massimo, siamo arrivati a Roma con proprio questa voglia di fare, di strafare, perché poi abbiamo strafatto. Non è andata bene, siamo stati sfortunati, stiamo rivedendo in questo momento appunto le immagini. Sì, in streaming continuiamo a rivedere l'episodio da Moviola. Che tutti hanno... Tutti nel replay l'hanno vincenti noi, purtroppo. E invece la regia lì non c'ha... Questa è la parte finale, aspetti, guardiamo bene perché veramente si vede come si è buttato l'avversario. Sì, beh, ecco. È stato sicuramente più fortunato di noi. Chi era il numero uno? Allora, Andrea Messina. Andrea, sì. È stato sicuramente l'altro ragazzo più fortunato di noi perché sì, ha tagliato la strada, però comunque era più avvantaggiato perché era un ragazzo altissimo, quindi non, per lui non è stato difficile mollarsi sul tappetino. Andrea ce l'ha messa tutta, però anche lui dispiaciutissimo. Indubbiamente bisogna essere, oltre che atletici, esperti di musica, perché certo, quindi sì. Bisogna abbinare due qualità. Non è semplice, perché tra l'altro all'interno della mano non è neanche semplice captare i segnali dall'esterno. Ecco, qui c'è l'immagine. Continuiamo a... della doccia di Serena. La radio, chiaramente dobbiamo descrivere quello che si può vedere in streaming. Stiamo rivedendo l'immagine della doccia che ha visto il protagonista Serena Jefere. Terrorizzata. Praticamente dentro momento. Una doccia deve contare fino a 30. 30, sì. E indovinare esattamente i secondi. Sì. Praticamente non è per niente facile, perché una volta che si preme il bottone, come potete vedere, non parte subito il timer, ma bisogna trovare l'attacco. Loro mi hanno fatto fare una prova la prima volta che siamo stati a Roma, quindi la settimana prima, e non è per niente facile in quel momento ricordare, comunque indovinare, concentrarsi anche, insomma io ce l'ho messa tutta, però pochi ci sono riusciti durante questi anni questi anni di mezzogiorno in famiglia, quindi alla fine è andata così, noi ci siamo divertiti un sacco. È un'esperienza che sicuramente rifarei. Per un secondo e otto decimi andate fuori. È Maria, che è un'esperta di sport, una campionessa internazionale dal valore internazionale, senz'altro ci può confermare che solo un secondo e otto sono davvero pochi. Infatti non avevo ancora visto questa trasmissione, ovviamente non, essendo lì non avevo anche questa registrazione, non avevo prima vista. Infatti questo gioco delle mani, perché a me ovviamente è più vicino, nel cuore, e ho visto ora appunto questi ultimi due riprese, e secondo me ancora più di quello ultimo, che avversario si è slanciato completamente, però quello di prima almeno erano, nostro era proprio sul simbolo, lui era praticamente fuori, ma queste sono ovviamente speculazioni che ormai non cambieranno il risultato, però giustamente avevo sentito dalle altre persone che era così, ma non ero ancora vista con i miei occhi. Però comunque confermo tutto quello che si è stato detto prima, che è stata una bellissima esperienza e un grandissimo dispiacere di non poterci magari riandare, ma speriamo con... Speriamo che con le dita. Sì, per la ripesca, per la prossima domenica. Come è andata con la bicicletta? Benissimo, bicicletta proprio, questa volta ci abbiamo rimesso tutto, e secondo me l'abbiamo dimostrato nostra atleticità, che abbiamo vinto quasi con 5 km di differenza, perciò non sono pochi. Quindi questa volta veramente una donna sola al comando. Sì, anche i ragazzi hanno fatto loro parte, ma donna, direi che... Senti, hai ricevuto messaggi, qualcuno ti ha visto in streaming dalla Finlandia? Sì, dalla Finlandia no, però di qua ovviamente amici, e specialmente le ragazze della palestra hanno fatto, anche che abbiamo fatto una sconfitta dignitosa, ma hanno fatto, ma trasmissione deve essere truccata, non è possibile che voi fate tutto questo impegno, vincete tutto, e alla fine si dà la fortuna, però purtroppo il gioco è fatto così. Sì, il gioco è questo, e bisogna accettare... Sì, infatti, detto finale. Ecco, sperate in un eventuale ripescaggio. Sì, infatti, tutti quanti. E allora ritorniamo a Maria Rosaria. Non abbiamo chiesto a te la tua esperienza romana e le tue fatiche per organizzare la seconda trasferta. Che bilancio fai tu alla fine di questo evento, esperienza? Sicuramente un bilancio positivo perché grazie alle mie precedenti esperienze sportive ho potuto reclutare insomma delle persone e fare una squadra che alla fine si è dimostrata tale, perché subito dall'immediato c'è stato un certo affiatamento, il gioco di squadra che è proprio dello sport, diciamo, e quindi oltre a questo questa esperienza televisiva mi ha lasciato un bagaglio di conoscenze che sicuramente mi serviranno per il futuro, perché ho conosciuto tanta gente, ho conosciuto personaggi insomma televisivi che mi potranno essere d'aiuto per il futuro sicuramente. Speriamo di portarli magari qui per altra occasione. Noi abbiamo dato, cioè almeno io personalmente ho preso i contatti con tutti, ho dato bigliettini, numeri di telefono, e abbiamo cercato di coinvolgerli, quindi sicuramente più di uno lo avremo di nuovo qua a Cefalù. E posso confermare che ad esempio anche le gemelle Squizzato erano innamorate di questo posto. Sì, anche mettevano quasi a piangere quando hanno Anche perché hanno trovato due giornate fantastiche, e io le ho incontrate personalmente assieme alla troupe della Rai sul lungomare, e anche in diretta loro hanno detto che si stavano prenotando il costume per la prossima settimana. Voi persone alla mano, persone insomma che anche se sono insomma personaggi televisivi, ma che si mescolavano con noi senza problemi, che scherzavano. Poi il nostro capogruppo, che è stato veramente una persona Pietro Bianca, ci voleva nel gruppo perché ha dato molta carica, molto spirito, insomma. Ci siamo veramente divertiti ed è un'esperienza, sicuramente un tassello che rimarrà nella nostra vita come un ricordo veramente eccellente. A questo punto penso sia doveroso ridare la linea alla regia. Eh sì, c'è sempre la pubblicità, e adesso dopo la pubblicità ci sarà il caposquadra. Ma prima racconterai tu le tue esperienze romane. Certo, cioè anche se sono di qua, però devo raccontare pure. Sì. Pubblicità. Gianna, Gianna. Gianna prometteva pareti e fiumi. Gianna aveva un coccodrillo e un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Con la canzone appunto di Rino Gaetano, Gianna, ritorniamo appunto a parlare di Mezzogiorno in Famiglia con Giacomo Sapienza, note. Intanto mi scuso sempre per la voce persa domenica mattina per tifare per la squadra cefaludese. Grazie, allora, grazie. Allora Patrizia, la tua esperienza romana. Allora, come dicevo anche prima, appunto è stata una bellissima esperienza, perché poco fa mi ha fatto l'intervista anche Francesco Puglisi, quindi ho dovuto rispondere anche a lui. No, è stata una bella esperienza a livello materiale, nel senso fisico un po' stancante, perché naturalmente prendere l'aereo molto presto, arrivare lì in studio, quel trucco e parrucco, veramente. Poi ci siamo riposati un po' sabato pomeriggio, comunque è stato un po' stancante, però a livello umano, a livello emotivo, appunto è bello, una bellissima esperienza. Appunto stare negli studi televisivi, anche se è una trasmissione appunto molto leggera come appunto Mezzogiorno in Famiglia, è bello, una bella esperienza conoscere anche persone del mondo dello spettacolo, non sempre ci capita giornalmente a noi qua a Cefalù, però devo dire che abbiamo imparato tanto e ancora abbiamo la speranza di poterci ritornare. Appunto dicevo prima che c'è la possibilità domenica che c'è il sorteggio e quindi ci possono sorteggiare tra 12 comuni e quindi aspettiamo l'esito di domenica, vediamo. Stiamo vedendo intanto in streaming le immagini di Mezzogiorno in Famiglia col caposquadra Pietro Bianca, che è appena arrivato qua in studio e quindi noi lo accogliamo così. Pietro Bianca è qui. Ma io sapevo la voce, però mannaggia la sera. E allora siamo in diretta anche noi. Bello essere in diretta. Che emozione. Perché diretta a me. Allora, sincerità per sincerità, i ragazzi hanno tutto il loro favore per questa nuova esperienza, per questa emozione che a una certa età, devo dire la verità, prendono meno, anche perché insomma le mie esperienze le ho anche fatte, per cui non è tanto il fatto di personaggio, compagnia bella, quanto forse ero più emozionato a pensare a far fare una bella figura alla nostra città, e questa è stata magari la cosa più importante. Ecco, l'unico momento magari di perplessità nel dare le risposte era questo qui, perché da una parte o dall'altra ci pensi e ci ripensi. Ma ancor più di questo, oggi, più che delle nostre esperienze, che saranno i ragazzi poi a parlarvi, perché c'è l'entusiasmo di quello che hanno vissuto, io l'ho vissuto assieme a loro e con Rosa Maria abbiamo insomma capito quanto è bello partecipare a queste cose qua, ma soprattutto vedere la voglia dei ragazzi, che oltre alla voglia del fatto così televisivo avevano proprio la voglia, perché tanto abbiamo parlato di Cefalù, pensieri, quello che si può fare, quello che non si può fare. Allora mi chiedo, nel momento in cui questi nostri ragazzi hanno tutta questa voglia di fare per il nostro paese e poi queste cose da un certo punto di vista vengono mortificate, e se non si riesce a trovare quell'accordo, quel campanilismo, quel stare assieme a chi ci rimette la faccia in fin dei conti, questo qua mi fa un po' pensare, perché il bello sì è stato la diretta e tutto il resto, però a monte dobbiamo anche dire che chi ci ha messo un pochettino veramente l'impegno alla faccia, a partire da Sarola Punzi, Enzo Garbo e ad altri, però dico all'inizio non è che c'è stata tanta questa collaborazione per poter poi mano a mano ci si è svegliati. Allora questo non è per fare una critica, ma per dire semplicemente, oggi che stiamo vivendo questi periodi abbastanza drammatici per quanto riguarda l'economia, per quanto riguarda tutte le nostre famiglie, sarebbe assurdo pensare, come si pensava una volta, dove chi ha preceduto questa amministrazione ha speso senza manco tanta accortezza, e quindi non c'è più la possibilità adesso di andare a reperire dei fondi. Oggi l'economia si deve creare nelle piccole città, cioè nelle realtà locali, e per creare l'economia nelle realtà locali si deve smettere innanzitutto di begare, innanzitutto di far parte politica, innanzitutto di prendere parte a certe situazioni che poi non portano a niente, ma unirsi alla comunità e la comunità tirar fuori il meglio. Noi a Cefalù abbiamo, possiamo dire, il meglio, abbiamo tanti ragazzi che in diversi settori esprimono il meglio, una parte un po' l'avete vista per questi ragazzi che hanno partecipato, che così, senza avere nessuna pretesa, ci hanno rimesso la faccia. Sì, parlavamo proprio di questo anche nella scorsa trasmissione. Abbiamo creato, avete creato una squadra davvero formidabile, un'esperienza che sicuramente va ripetuta in ambito locale quando ci sarà da organizzare qualche altro evento o essere da riferimento per altre manifestazioni non necessariamente televisive. Squadra che vince non si cambia, quindi questa squadra potrebbe diventare la base per creare una nuova rinascita culturale cefaludese, sportiva anzi. Io ti ripeto, anche io come tanti altri siamo innamorati e amanti della nostra città. Mi hanno chiamato perché qualcosa non è filata nel verso giusto, perché qualcuno ha avuto degli impegni e si è dovuto ritirare. Beh, io ci ho rimesso la mia faccia tranquillamente, sia che poi abbiamo fatto bella figura come l'abbiamo fatta, sia se le cose fossero andate in maniera diversa, perché parto dal punto di vista che se tutto ciò che fai lo fai con la coscienza e per un fine, un buon fine, insomma i personalismi si debbono mettere da parte. Però oggi, credimi, la mia partecipazione qua è un pochettino per sensibilizzare ancora di più tutti nella nostra comunità a non dividerci, perché i tempi sono duri e non sappiamo quello che ci aspetta, a unirci e ad essere veramente qualcuno l'uno per l'altro, cioè rivalutare il sociale, perché noi a Cefalù abbiamo un tesoro inestimabile da tutti i punti di vista. E allora permettetemi di lanciare questo messaggio. Io, anziché magari da imprenditore del settore, anziché investire non so quanti soldi per fare una certa pubblicità, io quest'anno magari con un po' di sacrifici avrei fatto una sola pubblicità, mi sarei messo d'accordo con gli altri, avrei buttato giù un po' di costi e poi avrei fatto una pubblicità massiccia. Sì, certo ci si perde, ma non perdiamo il treno. Cioè possiamo perdere un appuntamento, però saremmo continuati a rimanere sulla cresta dell'onda. Ora, magari tu non sei imprenditore, sei presuntuoso, una cosa del resto, pienamente d'accordo. Do queste opportunità che mi dicano questo, ma se 2 più 2 fanno 4 e se altre situazioni non ce n'è, non possiamo aspettare sempre che la manna ci cala dal cielo, perché così come l'economia va male qua, va male in tutti i posti. E oggi spostarsi significa affrontare una certa spesa, ma è mai possibile pensare che in questi periodi di crisi, dove anche le famiglie che stavano bene, diciamo, non possono manco permettersi o non vogliono permettersi anche il weekend, cioè, e noi pretendiamo o di aumentare o di mantenere quei costi, allora facciamo una bella pubblicità, uniamoci, se ne parla, si discute, veniamoci incontro, e se vogliamo campare di turismo, smettiamola di essere presuntuosi, smettiamola di venire sui giornali per dire chissà chi, chissà che cosa, le beghe non servono a niente, e soprattutto chi fa sono distruttive invece che costruttive, e soprattutto chi fa informazione, che la faccia veramente a cuore aperto, che la smetta di fare partito preso, perché non serve a niente, non serve a nessuno. Fare informazione significa aprire a ciò che pensano gli altri, su ciò che pensano gli altri poterne parlare, certo. E criticare sempre non ha nessun motivo di essere e di esistere, se noi dobbiamo criticare sempre, ma un po' di buonsenso ritengo che sia importante. Giusto, bellissime parole da sottoscrivere, copiare e ripetere un'altra volta, perché è bellissimo. No, vabbè, perché no, ma al di là di questa esperienza, che comunque appunto poi al di là dell'esperienza, di quello che stiamo imparando e quello che dobbiamo imparare, io sono stato felice per voi, devo dire la verità, nel vedervi, sarà perché insomma papà ci sono, nonno pure, e quindi vedervi quei giorni che avevate veramente quell'innocenza, cioè questa era stata per me anche la cosa più bella, e vedere voi ragazzi con quella semplicità, con quell'innocenza, senza avere, senza tirarsela, che avete partecipato. E forse dico che siete stati apprezzati veramente negli studi televisivi da chi magari quando ci ha conosciuti pensava sì, questi saranno un po' come gli altri, invece poi alla fine dobbiamo dire, come si suol dire in siciliano, la sammuciauro, perché sì, infatti. Tutti in studio sono rimasti contenti. Intanto da poco abbiamo rivisto le immagini dei gestisti cefaludese, Carmelo, Marsala e Luana Valenziano, sono stati davvero eccezionali, fortissimi. E ricordiamo a proposito di basket che il Cefalù ha vinto la Zannella Basket, dove gioca Carmelo Marsala, che fa parte della squadra dei Mezzogiorno in Famiglia anche, hanno vinto la prima partita dei playoff. Quindi abbiamo una squadra composta da ragazzi davvero impegnati, davvero di altissimo livello, di grande spessore sia dal punto di vista culturale che sportivo. Bell'impegno soprattutto. Oltretutto concorrenti che abitano tutte queste cose, perché abbiamo dei ragazzi preparatissimi. Con più ragazzi che ci hanno creduto, perché non bisogna dimenticare che si sono anche autofinanziati. Quindi hanno messo proprio anche dal punto di vista economico del proprio per partecipare a questa trasmissione. Quindi lodevoli, veramente, sotto tutti i punti di vista. Sì, quindi rinnoviamo l'appello a non sciogliere questa squadra, ma a coinvolgerla anche per altre manifestazioni. E adesso se ne preparano tantissime. Si parla anche di un carnevale primaverile, si parla anche di un primo maggio di grande festa, si parla poi dell'estate soprattutto. Noi abbiamo qui atleti, esperti di musica, esperti in turismo, esperti in natura, esperti in tantissime attività. Il nostro capogruppo è esperto in moda, anche perché nella sua passata gioventù. Ma anche esperto in musica, perché batterista, quindi insomma abbiamo di tutto. Questa cosa che mi fa piacere che ci sono innanzitutto tutte ragazze. Sono tutte ragazze laureate, quindi che hanno un titolo di studio. Cioè, e questo qua è stata una cosa bella presentarsi, perché significa che in Sicilia in effetti non è che si studia solo perché non si ha nulla da fare, ma si studia perché si ha voglia di fare, che è diverso. Poi abbiamo fatto diventare cefaludese una finlandese, insomma pensateci, piuttosto magari a Brescia no, ma noi abbiamo coraggio di far diventare cefaludese una finlandese, la quale insomma si è immedesimata in tutto, non solo si è immedesimata ma aveva proprio faccia da zappeppina, insomma, sì, perché... sì, sì. Quando, porca miseria, quando ci dicevano qualcosa, auggio che freddura finlandese, si mangiava praticamente. Si mangiava ante robe. Capisci? E quindi questo è un altro punto a nostro favore. Poi, Ketty, non ne parliamo, Ketty è la nostra, noi l'abbiamo eletta come nostra hostess sull'aereo, cioè ci sono le hostess di volo, però siccome ha fatto concorso di hostess su Compagnia Bella, ancora uno ci ha voluto scriverci, dice Mughetti, fanno l'hostess, insomma ne facevo. Ricordiamo che sia Maria sia Ketty sono laureati in turismo. E questo sto dicendo. Quindi dico, ragazzi non erano nemmeno. I ragazzi tutti, insomma, tutti. Veramente. Allora, proprio perché c'è questa potenzialità, dico, smettiamola di criticarci sempre. Anzi, cerchiamo di vederci per fare. Tu che ne pensi? Come facciamo? Come potevamo fare? Sì, io posso fare questo, ti posso dare un aiuto di questo. È questa la carta vincente, perché Cefalù ha tanti di quei numeri che noi manco riusciamo. Veramente abbiamo. Cioè, pensate solamente una cosa, ragazzi. Sul ragazzo che mi ha fatto 8 canestri in studio, le persone facevano Oh, ma io riusciva tanto tranquillo a tirare e fare canestro, che era una cosa, incredibile. Vabbè, ma poi quindi, tutta la squadra, sicuramente abbiamo fatto il maggior numero di punti in un fine settimana, nessuna squadra aveva mai fatto 13 punti in un fine settimana. E 8 punti in una sola puntata. E 8 punti in una sola puntata, quindi abbiamo fatto un mare di record, ma siamo stati insomma esclusi per un gioco che poi alla fine, vedendo qua il replay del gioco, forse non è, ma c'era anche da dire c'era anche da dire che, allora, per sapere, quando loro ci avevano esposto le regole del gioco tassativamente, chi impediva, perché tanti hanno detto si potevano mettere davanti, ostacolarle, non è così, non si poteva. Così come nella prima puntata, quando quello della squadra di Desenzano ci ha fatto scivolare, è stato, se vi ricordate, è stato eliminato. Quindi il gioco alla fine, tutto sommato, se si voleva giocare apertamente, era sempre nonostante 5-1-1, perché uno doveva lanciarsi, ma se l'altro ostacolava o spingeva o combinava qualche altra cosa, sarebbe stato comunque... Ah, poi voglio dire una cosa, Picciotti. Non per parlare male della presentatrice, perché tutte mi hanno domandato. Allora, e vi racconto, io e Luca, e praticamente Luca, quello che ci stava smontando la bicicletta quando pedalava, non so se ve l'hanno detto, sì, che c'è visto. No, il filo rimasto nella ruota. Allora, nella prima puntata, talmente andavano come diavoli questi qua, che quelli avevano paura che ci smontassimo la bicicletta. Il filo si incastrò nella ruota dietro e allora i ragazzi hanno dovuto scendere, quelli hanno dovuto mettere a posto, cosa che poi capitò anche agli altri ragazzi nell'altra puntata. A monte di questo, allora con Luca, insomma, non faceva tanto, poi ce ne stavamo andando, era finita la trasmissione e siamo passati accanto a una che non sapevamo chi fosse, con Luca, perché questa qua era scesa dai trampoli 30 centimetri ed era proprio la presentatrice. Era scesa dai trampoli e noi non la conoscevamo più, perché forse il trucco se n'era andato. Allora, anche alla RAI direi, c'è proprio bisogno di andare in Spagna a pigliare delle bellezze quando noi qua ne abbiamo a iosa? Eppure basta, direi, eppure basta. Questo studio qua ne abbiamo. Cioè ne abbiamo a iosa, Picciotto, insomma, va, abbiamo il ragazzone di Rumeggi, se vogliamo considerare in anche streaming, la... In streaming vediamo la bicicletta, la pedalata di Maria. Maria chiedeva come un treno, chiede se scantavano che ci rompeva la bicicletta, diceva, ma chi sta chi è? 10 pedalate Maria a Elena e 5 pedalate dall'altra parte dell'altra squadra. Abbiamo dimostrato che anche le donne sono più forti. No, insomma, ci sono. Io oggi è una campionessa internazionale. Oltretutto. Comunque io ne approfitto anche per ricordare naturalmente il cantante lirico per Luigi Mazzamuto e anche i ballerini, sì, che hanno dato anche un grande contributo per arrivare appunto a un certo punteggio. Cioè, tutti ci hanno rimesso veramente, sì, qualcosa, perché sì, sai, sì. Per Luigi è un insegnante, è un docente, un docente universitario, quindi. Però ti dico, nella comitiva, e poi è stato un ragazzone, una cosa incredibile, figurati, sì, che a Roma si è messo anche lui a begare con le hostess che non ci facevano passare la valigia. Sì. Già avevamo la denuncia pronta, perché lui, insegnante di diritto, insomma, è docente universitario, quindi già avevamo pure l'avvocato appresso. Comunque, scusami, sì. Giacomo, volevo sottolineare un'ultima cosa, che a parte il primo fine settimana dove i cittadini sono stati un po' diffidenti nell'approcciarsi e nell'avvicinarsi a questa iniziativa, poi alla fine nel secondo fine settimana ho visto tanta partecipazione, ho visto che si sono veramente, insomma, amalgamati in questo evento, cosa che è stato positivo, insomma, per tutti noi, e spero che nelle future manifestazioni, nei futuri eventi, subito a primo acchito si lancino e collaborano con la squadra, con le future squadre che ci saranno, perché abbiamo bisogno di sostegno e il sostegno lo devono dare i cittadini. Soprattutto in eventi del genere, anche perché abbiamo visto che col televoto, perché sì, abbiamo detto che siamo stati bravi, abbiamo fatto il record, però con il cantante hanno tutti visto che l'altro era nettamente superiore, perché aveva una voce strepitosa, e quindi ma il televoto però ha fatto la differenza, i cittadini cefaludesi hanno votato il nostro cantante e abbiamo vinto, quindi ci vuole anche il sostegno dei cittadini e bisogna, insomma, essere collaborativi. Kate, abbiamo parlato di turismo, tu sei un'esperta anche in turismo, ecco, vi hanno chiesto qualcosa su Cefalù, qualcuno in studio sono stati incuriositi? Tutti sono meravigliati, tutti avevano una voglia di venire a Cefalù, infatti ancora tuttora sento qualcuno di Desenzano del Garda o comunque di Nemi che vogliono essere ospiti nella nostra cittadina e noi saremo felici di accoglierli. Ma anche ragazzi di Nemi, anche sì, ragazzi sì, di Nemi. E saremo noi felici di accoglierli, assolutamente. Si dice che si stanno organizzando, sì, sì, sono grande pullman, una trasferta qui a Cefalù per anche visitare il nostro mare. Sì, sì, quindi sì, il lato positivo della trasmissione è anche il fatto che di promuovere la nostra città. Certo, non lo vogliamo ricordare al nostro radioascoltatore, lo scopo primario è questo, promuovere la città, e penso stia funzionando, perché al di là del gioco rimane l'amicizia con gli altri avversari. Ormai non eravamo proprio avversari, comunque c'era una sportività anche dietro le quinte che era eccezionale, senso che i ragazzi avevano comunque voglia di conoscerci, noi avevamo voglia di conoscere loro, ci siamo amalgamati tutti e abbiamo conosciuto tradizioni che comunque non sapevamo, anche degli altri paesi come Nemi, che io non sapevo che fosse conosciuta per le fragole. Conosciuto anche questo, so che fanno la mortadella con le fragole, non so come sia, spero di andarci per andare a vedere com'è, insomma, per assaporarla, e del resto insomma tutto fantastico veramente. Maria, una tua impressione su, ripeto la domanda che ho fatto a Kate, sì, questo può essere anche un motivo per creare nuove amicizie, nuovi scambi culturali magari con altri comuni? Perché si è pensato finora soltanto all'aspetto sportivo, al gioco, però il fatto di tanti comuni che si incontrano, diciamo, non può essere sottovalutato. No, altro che, perché anche la trasmissione stessa è fatta per promuovere appunto il comune, e abbiamo fatto due puntate, veramente penso che Cefalù ha dato meglio di sé, veramente quelle riprese e le foto che ancora si vedono su Facebook, su internet, su dal Piazza Duomo, quei colori, anche questi conduttrici gemelli accanto a quei quadri di fondo di botte, che sono veramente spettacolari. Abbiamo avuto un modo di promuovere anche cose particolari della nostra città, altro che questa è una cosa, aspetto, dovrebbe essere anche una veramente la cosa più importante. Tu sei finlandese, ma come hanno detto loro, ormai cefaludese, ormai, di adozione, ormai restano tutti scioccati che parlo siciliano, aspettano l'accento di fuori, quello tedesco, che hanno inglesi pure molto pronunciato, ma altro che. Senza scendere nei dettagli, tu pensi che Cefalù possa risorgere da questo stato di crisi, a partire anche da questa trasmissione magari? Abbiamo le potenzialità per uscire fuori? Sì, però come diceva Piero, ci vuole tanto impegno nostro e unirsi veramente anche a livello appunto accogliere turista. Se il turista viene e viene accolta bene, verrà, tornerà e porterà altra gente. Questa è una cosa che dobbiamo sempre ricordare, dobbiamo trattarli bene, dobbiamo offrire tante cose che loro possono fare durante la, non solo il mare che ce l'abbiamo già, ma anche creare eventi appunto che si parlava prima, che ho sentito che si hanno intenzione di organizzare molti in questo anno, e spero che anche in estate, appunto periodo turistico. Senti, la tua attività sportiva ha impegni prossimi? Ora domani parto al FIBO, che è la fiera più grande del fitness in Europa, Germania in generale, in Europa è la piazza più grande, anche novità, vado a vedere novità per la nostra palestra, anche faccio dei servizi fotografici, perciò per promuovere sia mia carriera personale di atleta, ma anche la nostra palestra. Palestra che è a Cefalù, quindi Cefalù sarà alla ribalta internazionale anche grazie alle tue attività sportive. Sì, cerchiamo ancora ovviamente andare avanti, appena abbiamo avviato bene, speriamo di organizzare eventi veramente importanti anche a livello sportivo, che anche possono diventare eventi turistici, perché ovviamente anche a Canci, sia nella Finlandia che in altri posti, che voglio fare diventare anche sport internazionale a Cefalù. E allora Serena, stesse domande su per giù a te, ecco, da questa squadra cosa può uscirne fuori in seguito? Io sono propositiva e spero che ci rincontreremo per comunque organizzare altri eventi. La cosa che mi ha colpito di più è arrivare lì in questo studio televisivo, conoscere questi personaggi famosi, e alla domanda da dove venite, Cefalù, tutti rispondere con questa faccia meravigliata, con questi occhi che brillano. Ricordo magari di pochi giorni passati qui, è un orgoglio, ecco, arrivare lì e parlare con la gente, tutti parlare con la gente, sì, questo fatto di Cefalù comunque è conosciuta in Italia, in tutto il mondo. Per noi giovani, per me soprattutto, a volte è un peccato vedere, comunque magari abbiamo queste possibilità ma non le sfruttiamo, e quindi la mia speranza appunto è che noi giovani con queste iniziative riusciamo a riportare, appunto, come dicevo nella scorsa trasmissione, in alto il nome di Cefalù. Questa è una domanda che un po' ora rivolgo a tutti: ma chi è il personaggio in studio che vi ha colpito di più? Allora, per quanto mi riguarda, il personaggio con cui io anche ho avuto più a che fare, tra virgolette, è stato Sergio Friscia, perché a parte che lui, come Amadeus, è siciliano. Ma anche questa regista, cosa che ci quindi anche questa cosa che ci accomunava. Però durante le, appunto, le pause tra un collegamento e l'altro, sempre mi guardava, c'era un sorriso, c'era uno sguardo complice, e lui sempre mi diceva: Serena, stai serena. E quindi, bello, ho un bel ricordo, porterò un bel ricordo di lui. E invece c'era qualcuno in squadra che tu prima non conoscevi? Allora, diciamo che non conoscevo tutti di vista, ma non li conoscevo tutti molto bene. Questa esperienza è stata, appunto, la scusa per approfondire questi rapporti, e devo dire che ho incontrato persone meravigliose. E allora facciamo un ultimo giro, perché il timer, come sempre, è impietoso, sono già le 13:01. Allora, Maria Rosaria, i saluti finali e il messaggio che vuoi lanciare alla luce di tutto quanto abbiamo detto in questa puntata: collaborazioni future, e prospettive future, e poi il motto che abbiamo detto: squadra che vince non si cambia, quindi un punto di partenza per nuovi importanti traguardi in ogni caso. Sicuramente abbiamo un trampolino di lancio che è importante, perché ormai diciamo che abbiamo fatto la nostra squadra, è la squadra vincente, quindi siamo avvantaggiati in questo. L'augurio che posso fare a tutti, intanto li voglio ringraziare tutti, perché sono stati tutti squisitissimi, sono stati tutti eccezionali, ognuno ha avuto il suo ruolo e hanno collaborato proprio in una maniera strepitosa. E grazie a loro abbiamo potuto portare anche questo piccolo contributo alla città, una vittoria e tanta visibilità che abbiamo dato in queste 4 puntate. Alla fine, negli ultimi giorni ero stremata dalla fatica, perché collaborare con la redazione RAI non è stato facile, perché in un mese ho dovuto mandare tantissimi video, tantissime foto di tradizioni, di artigianato, di hobby curiosi, insomma tutto quello che mi richiede. Chiedevano e alla fine mi arrivavano anche 50-100 telefonate al giorno da tutti, sia per concorrenti sia per tutte queste, insomma, tutte queste altri link che dovevo spedire per i collegamenti con la piazza. Ma alla fine adesso dico che è stato tutto meraviglioso ed è stata un'esperienza veramente indimenticabile, perché poi la fatica passa, diciamo. Spero che di poter dare altri contributi alla città, e spero che ci siano tantissimi altri eventi del genere, e tanto la squadra ce l'abbiamo, e speriamo che saremo di nuovo noi a tenere alto il nome della città. Professore Bianca, nonché caposquadra, il suo messaggio ai suoi atleti? Torbi e torbi. No, allora, prima ringraziare Maria Rosaria, senz'altro, perché proprio in questo tempo io non mi sono interessato proprio, cioè ho fatto il giovincello che veniva portato proprio da lei, perché si interessava di tutto, dal taxi, insomma, tutte le cose qua, e questa è una cosa fondamentale, trovare chi c'ha ancora tanta di quell'energia a poterci, quindi tutto sommato era la mamma Chioccia che ci ha preservato da ogni situazione che si poteva verificare, e questa è una cosa importante. Secondo, poi direi, quando avete qualcosa da dire, mettete il numero nel telefonino e telefonate. Perché trovare delle telefonate senza numero è una cosa spiacevole, perché significa che siamo sempre nel solito ambiente fatto di sguazzabugli, di gente che non ha il coraggio delle proprie azioni, E questa è una cosa, insomma, disdicevole, come si parla tanto Cefalù, accoglie, e poi ci sono personaggi a Cefalù che ti chiamano e non ti dicono chi è il numero. Allora, a parte la vigliaccheria che io ho sempre detestato, però mi fa proprio specie, perché significa che non vogliamo crescere, insomma, in questo paese. E l'altra cosa a cui tengo veramente è dare un messaggio: mettiamoci assieme tutti, imprenditori, non imprenditori, ragazzi, non ragazzi, affrontiamo solo questo periodo di crisi, permettiamo a tutte le famiglie a Cefalù di vivere decentemente, riscopriamo un pochettino il sociale, la comunità, diamoci una mano ad uscire da queste cose, poi quando le cose saranno rimesse a posto ognuno riprenderà il suo ruolo, potrà criticare, potrà fare e potrà dire. Ma adesso facciamo sta prova a dimostrare di essere una comunità matura, una comunità che vale indipendentemente poi da tutto quello che potrà accadere, che si possa ritornare in Rai o che non si possa ritornare. Questo è l'augurio che faccio ai miei concittadini e a tutti. Serena, il tuo saluto e il messaggio per questa esperienza romana, allora, come la chiamo io ormai? Innanzitutto volevo ricordare anche i ragazzi che hanno partecipato al gioco delle mele, di cui non abbiamo parlato, che sono stati anche loro fondamentali. Il tempo delle mele. Di cui anche Maria comunque è stata brava a trovare le persone giuste che si sono saputi mettere in gioco e sono stati anche loro fondamentali appunto per la riuscita del gioco. Per il Scusa, resto, sì. Forse non sapete che qualcuno ha preso la mela per souvenir. Addirittura, per ricordo. Con morso, originale. Stiamo andando le immagini streaming del gioco della mela. Abbiamo fatto un bel passo avanti. Ragazzi, durante la settimana si sono allenati. Ci siamo visti in palestra lì fuori, tavolino, mele, insomma, sono stati volenterosi, si sono messi in gioco e è andata bene. Per il resto, io sono fiduciosa e sono ancora speranzosa nel ripescaggio, perché ho voglia ancora di dimostrare che comunque che non dormivamo, che siamo una squadra in gamba, ecco. Il tuo saluto e speriamo sia un arrivederci alle prossime puntate. Ma ci sperate? Sì, io ci spero tantissimo che la prossima domenica, insomma, ritorniamo tutti a domenica c'è ripescaggio innanzitutto a fine diretta. Puntata no, in diretta nella trasmissione di domenica ci sarà un sorteggio dei 12 comuni che non sono entrati nei quarti di finale e noi siamo candidati. Però se c'è a quarto tutte intere ci ha mangiato. Sì. Noi ci auguriamo che veniamo ripescati, però ecco, io ci credo e non ci credo comunque. Ci spero, ecco, questo alla luce sì. Di quando ha detto il professore Bianca Maria Rosaria, ecco che messaggio esce alla fine fuori dopo questa trasmissione. Io ringrazio innanzitutto Maria Rosaria perché, per quanto mi riguarda, ha creduto in me, nelle mie capacità e in quello che insomma potevo fare. È stata una mamma veramente, una mamma chioccia, perché si è presa cura di noi in tutti i sensi. Ci ha catapultato. Non è una cosa seria questa, insomma. Va. Poverina, io pensavo veramente che fosse stremata, soprattutto dalle chiamate che le arrivavano in continuazione. Parlava 24 ore su 24 al telefono. Ha una pazienza. Io infatti ha una pazienza incredibile, incredibile, veramente da apprezzare. Io non so se ce l'avrei fatta a sopportare tutto ciò. Noi comunque godavamo insomma di quello che facevamo. Noi eravamo insomma messi lì, catapultati lì, però facciamo insomma il lavoro più bello. Lei forse poverina nell'organizzare tutto, nel fare tutto, aveva il lavoro. Io voglio ringraziare personalmente l'amministrazione comunale, l'amministrazione comunale, perché ci ha alloggiato in un hotel a 5 stelle. Sì. Andavamo sempre a 5 stelle. Andavamo sempre a pranzo in cena, che non era una mensa ma era una bella cosa, veramente sì. Simpatica. E poi avevamo sempre il conforto delle suore. Sì. perché alloggiavamo in un convento praticamente. Ma è non è stata l'amministrazione, dobbiamo precisare, no, non è stata per dire che anche questo abbiamo, la RAI ci ha mandato... anche questo insomma l'abbiamo preso così con molta allegria. Sì, è stato proprio perché poi trovammo sue ricette saporite che ci facemmo simpatia, capisci? Facciamo un appello alle chiavi perdute. Ah, perché... non si trovano le coraggi. Facciamo un appello, se si trovano le chiavi della stanza numero 19, per favore, si è pregati di dirlo, perché le suore tartassero di chiamate Maria Rosaria. Brava, per brava, perché ancora oggi dicevo telefonate per le chiavi perse da Suor Flora. Ci siamo fatti riconoscere anche in quello, insomma. Siamo noi, punto. Ringraziamo l'amministrazione comunale, seriamente, il sindaco era probabilmente era impegnatissimo, ho visto che saliva in municipio perché sicuramente aveva impegni di ufficio istituzionale, si affacciava alla finestra, scendeva proprio, Garbo scendeva, dice, che fa, vinciamo una partita. Garbo era presente in piazza costantemente a dirigere, diciamo, a coordinare un po' tutti i lavori, veramente una presenza costante. Ed è giusto che l'amministrazione comunale, che in quel momento rappresentava davvero tutta la città, sia altrettanto collaborata da tutta la città quando si tratta di portare fuori il nome di Cefalù, al di là delle ideologie politiche. Ci vuole politiche. Solo un po' d'allegria e un po' d'amore che si diffonda veramente, senza pensare sempre ma Sirica... sempre le solite come la pensiamo, cambiamo che le cose meglio andranno. Allora Maria un tuo messaggio, come dice il professore Bianca, ad amore per la città. Peppina, forza Peppina. Infatti sono molto contenta di essere stata coinvolta in questo progetto, perché ovviamente ho visto tanta voglia di fare, anche nel, appunto, quando ho chiesto delle persone, perché è pensato chi potevano fare questo gioco delle mele, mi ha fatto molto piacere di poter fare qualcosa per Cefalù, che comunque sia, essendo straniera, magari una resta un po' fuori dalla non fuori dalla società, però comunque non hai tanto non cosa, si integra tanto, infatti, bene, infatti, e non è facile, certo. Però in questo modo mi sento già più vicino e più parte della comunità, e spero di avere possibilità anche future di farlo più spesso. Tu conosci ormai anche tanti cefaludesi, pensi che si possono costituire tante squadre come questa, perché il materiale umano c'è sicuramente. Sì, certo, la voglia, e si vuole proprio, come diceva Pietro, allegria e forza di volontà. No, diffidenza, ma molta partecipazione, allegria, collaborazione, con queste prerogative si va molto in alto. Sempre. Allora, la sigla finale ve la facciamo noi, domenica è sempre domenica, tu! Sì, domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane. Bene, bene. Sì, e con questo siparetto davvero simpatico. Io comunque volevo dire una cosa, mi ricordavo che erano le chiavi 15, numero 15, no, sono cambiate le chiavi. No, numero 19 adesso. Ora cominciamo a dare nomi, giocateville, picciotti, tutti i numeri che avete sentito. Sì, ma intanto sono le 13:12, dobbiamo davvero salutare, e come dice Papa Francesco, buongiorno a tutti. Ciao, e buon pranzo. Avete ascoltato Note, a cura di Giacomo Sapienza.